È da parecchio tempo ormai che non frequento di persona i dirigenti della sinistra milanese. Sono tanto più giovane di me e forse per questo non sempre mi riesce di seguire il loro modo di ragionare, ammesso naturalmente che ragionino. Ma penso di sapere lo stesso come devono essersi sentiti quando hanno letto martedì scorso sul supplemento cittadino del Corriere della Sera il fondo di Indro Montanelli. In una breve colonna, colui che a dispetto degli anni e dei precedenti va ormai considerato se non il sommo almeno l'unico stratego della parte progressista del paese, gli raccomandava in pratica di non perdere più tempo nella vana ricerca di un candidato al posto di sindaco della nostra città. Che tanto non se ne cava un ragno dal buco e per di più possono capitare degli imprevisti mica da ridere come quello di Dario Fo. E di decidersi invece, di decidersi una volta per tutte ad esortare i loro seguaci a votare Albertini. L'odierno titolare di Palazzo Marino, a detta del vecchio Indro, è perfettamente in grado di correre per due. In suo nome le sparse membra della coalizione di sinistra, con la S maiuscola, potrebbero per una volta trovare l'unità, considerando il modo con cui ha amministrato in questi 4 anni il Comune di Milano, e cioè, dice lui, in nome e nell'interesse non di una parte politica, ma della città e della cittadinanza. E con il fine di lasciargli portare a compimento quelle iniziative su cui non si può che essere tutti consenzienti. Gli elettori, al dire di Montanelli, ci starebbero sicuramente. L'unico a poter provare qualche imbarazzo di un'elezione spontaneamente trasformata in plebiscito potrebbe essere Albertini stesso, il quale peraltro potrebbe sempre dire che dei voti della sinistra non aveva alcun bisogno, mentre la sinistra ha assoluto bisogno di darli a lui. È l'unico modo, dice Montanelli, che le resta per vincere, non per vincere ma per non perdere. Chissà se lo capisce. Ma io non sono così convinto, eh. Però davvero, signore, qual è? Il sindaco, in un'intervista del giorno dopo, ha dichiarato che trova tanta attenzione assolutamente sproporzionata per quel che riguarda i suoi meriti e il lavoro svolto, e in questo la dice giusta, ma si è guardato bene dal rifiutare. Ha detto soltanto che deve tener conto delle sue responsabilità istituzionali e della sua area politica di riferimento. Ma i destinatari dell'invito? I dirigenti di quel che resta della nostra sinistra, a cui se non erro nessuno ha sentito il bisogno di chiedere un commento qualsiasi, e come possono aver reagito loro a una proposta tanto bizzarra? Secondo me hanno reagito con un lungo sospiro di rimpianto. Se soltanto potessero, su quell'idea si butterebbero a pesce. Oggi non possono, poveretti, perché ci sono in ballo le elezioni nazionali, Rutelli, tutte queste storie qua, ma quanto gli piacerebbe. E forse non condividono al 100% il giudizio che Montanelli esprime sui meriti della giunta Albertini, nel senso che neanche a loro può essere sfuggito che quella giunta finora non ha fatto praticamente un tubo, salvo promuovere l'immagine del sindaco e forse quella del suo vice, ma la cosa ovviamente non gli interessa. Altrimenti avrebbero trovato il modo di farlo notare in qualche occasione. L'idea di una soluzione, come si dice oggi, bipartisan, deve toccare delle corde profonde nell'animo di chi da anni si pone come solo problema quello dell'unità con i popolari, con la lista Dini, con l'UDEUR e con chiunque possa vantare una sia pur remota ascendenza democristiana. E allora perché non saltare il fosso direttamente? C'è di più. La sinistra italiana nel suo complesso è stata accusata talvolta di investire troppa parte delle proprie energie nella costruzione del nemico, cioè di sperare di vincere non in nome dei meriti propri, sulla cui consistenza non sarebbe essa stessa tanto convinta, ma sottolineando i demeriti dell'avversario. L'accusa forse è ingenerosa. A Milano comunque è assolutamente fuori luogo. A Milano siamo specializzati in tutt'altra strategia. Noi, il nemico, ci sforziamo piuttosto di annetterlo. Pensate appunto ad Albertini, alle immeritatissime lodi che a tutti sembra necessario profondere sulle sue inesistenti capacità amministrative. È evidente che alla sinistra il ragazzo da qualche tempo interessa moltissimo. Non avete sentito dire anche voi da qualche parte che oltre a essere un tecnico di vaglia e un lavoratore coscienzioso, in fondo è un uomo indipendente, tanto è vero che Berlusconi sta un po' sulle corna, che non tollera interessi di partito, che ha fatto fuori senza pietà quel tristanzuolo di De Caroli e che se prende una decisione lo fa perché ne è convinto, nel senso che la sua ottica è quella del bene comune? E credete forse che questa beatificazione strisciante sia portata avanti così tanto per fare? Guardate, guardate che è già successo qualcosa di simile soltanto 4 anni fa e mica nel passato remoto. Siamo stati a un filo dell'alleanza formale con il buon Formentini. E il progetto non è andato in porto soltanto perché Bossi all'ultimo momento si è alzato con la luna storta e ha deciso che a lui una soluzione bipartisan non interessava per niente. Come, detto tra di noi, non dovrebbe interessare a chiunque abbia una minima idea di come funziona quel sistema democratico liberale di cui tutti sono sempre lesti a riempirsi la bocca, salvo negarne nei comportamenti concreti le dinamiche di fondo che prevedono, nel caso di un'elezione popolare a una carica, che le differenze non siano sopite ma esaltate, visto che è su di esse che si gioca la partita e in base a esse che si sceglie, no? Figuriamoci, quella del decano del giornalismo italiano, Montanelli, dico, probabilmente è solo una provocazione. Ma non ha certo lasciato indifferenti coloro che per fermare la valanga Fo non hanno saputo pensare a niente di meglio che a una doppia candidatura, un'ipotesi che oggi sembra proprio non funzioni. E tanto vale allora provare quella del candidato doppio. I was 21 years when I wrote this song. I'm 22 now, but I won't be for long. People ask me when we